Brina. Brina, Brina. Oh, aio Albè. Brina, okay. Cantina. Rosso fuoco e grigio cenere, colore di barbagia e bianco. Della brina che accompagna, poi se Roma è campo di battaglia, il nuoro si sta svegliando la bestia. Hey. Dopo la strage ci si trova in mischia, se ci voglio credere per poterti credere. Le mie mani sto guardando e sto bevendo latte di mandorle, fresco in quanto caldo il posto in cui l'ho assaggiato tempo addietro. Sono scivolato sopra il talco orato. Fammi sognare gloria e tu lasciami perdere, che io ti farò vincere la gioia più umida però. Sappimi prendere io che aria mi do, quando mi stritolo si è fatto tardi così. Pensieri ermetici come il pensore con gli incubi, arte colpiscimi, finiscimi. Ascoltami quando canterò Dio e dopo portami lontano a Yotio. Vista diventare bianca in una quasi notte d'autunno, verde smeraldo, ho visto Stefano di terracotta sul mio terrazzo color pastello, grigio come il cielo il 3 novembre sempre. Il profumo dell'ancia dolce, da quando ti ho personalmente ti penso mi piace. L'odore dei tuoi passi acidi, pasti ranci di posti scomodi, inafferrabili se ci muoviamo rapidi. Inaccettabili i tuoi spostamenti, i tuoi giochi lenti. Oh, mi senti? Inaspettati i miei stordimenti, se pensi che ci si riprende in pochi istanti. È la pioggia di settembre che porta l'autunno e il nostro risveglio, il nuovo millennio, un assaggio di ghiaccio, missioni di sbagli, madre dei miei figli, 33% dei miei sacrifici. Prima che esplodesse a pezzi sopra il corpo e piogge acide di scorze di limone che non danno spiegazioni, no. Odore di antico, l'odore che hai avvertito quando stavi in bilico. Smarrito fresco come punta di gelido, visioni che crollano e assimilerò fragranza di futuro e l'aroma di nuovo. È solo un'altra estate, fuoco e vento, modi per averti e caldo, giorni in cui starti lontano. È tempo per riavvicinarmi quanti momenti in cui stringere i denti. 2000 ancora niente in mano, guerriglieri disarmati. Sei gocce di spasmi, io li lubrificanti, sono uscito di casa trasportato dall'aria, ho preso sonno tu ferma sui miei passi, io ora è ad aspettarti. Io chiarmi se luci intermittenti illuminano strade che sbagliano, bagliano mentre i soli si spengono. Per pigrizia un invito a uno, no. Caffè nero senza zucchero dall'alto delle mie gomme antiscivolo purissimo. Mi innescherò magico e prima che scongela non fa schiuma, si respira vertigine fra quattro fibre ottiche, collassami il fuso in, non son cambiato neanche di una virgola. Vetro pacchi per chi non si sbriciola, familiarità e fiducia. Le mie mani riconoscono, fibrillano, brillano di luce propria. Già misurano uomini in freddezza, nero sulla carta ed anni in amarezza. A volte in amarena come questo, tagliato come da farina il mio palato fino. Mi accorgo quando sei vicina e stima che si sbrina.